voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Now, the really good thing about meeting the President of the United States is the food. They put you in this little room with just about anything you want to eat or drink. And since, number one, I wasn't hungry but thirsty, and number two, they was free, I must have drank me about 15 Dr. Peppers. Thank you. Nessuno mi conosceva a Buckton. Clem aveva scelto la città per questo. E d'altra parte, anche se avessi voluto cambiare idea, non mi restava benzina sufficiente per risalire più a nord. Appena 5 litri. Un dollaro e la lettera di Clem era tutto quello che possedevo. La valigia? Non ne parliamo neppure, per quello che conteneva. Dimentico, avevo nel portabagagli il revolver del ragazzo, uno sparuto 6,35 a buon mercato. Ce l'aveva ancora in tasca quando lo sceriffo era venuto a dirci di portarci a casa il cadavere per farlo seppellire. Devo dire che contavo più sulla lettera di Clem che su tutto il resto. Avrebbe dovuto funzionare, bisognava che funzionasse. Guardavo le mie mani sul volante, le dita, le unghie. Nessuno avrebbe trovato niente da ridire, nessun rischio da quel lato. Forse me la sarei cavata. Questo era l'incipit di Sputerò sulle vostre tombe, di Boris Vian. And swallows me. Quando Jay Swinscoe nel 1999 fondò The Cinematic Orchestra, pensate, lavorava sì alla Ninja Tune, però era un impiegato nell'ufficio export. E pensate che gruppo ha messo in piedi. E dopo quanti anni, sono 8 anni se non faccio male i conti, dal 99 a oggi, con che disco sono riusciti ad uscire proprio in questi giorni? Muffler, il loro nuovo album, dal quale ci siamo ascoltati il pezzo in sottofondo dal titolo Breathe. Ed in precedenza ancora Inghilterra ad aprire questa seconda parte del volume numero 3 di Eclettica, un altro grande album, un album che già conoscevamo con il brano dal titolo Collarbone, ma che si conferma sia con il brano che io ho scelto quest'oggi sia con altri, un grande album di elettronica per il trio di Brighton dal nome giapponese Fujiya e Miyagi. Ankle Injuries è il titolo del pezzo che vi ho fatto ascoltare quest'oggi. Sometime later, for no particular reason, somebody shot that nice young president when he was riding in his car. And a few years after that, somebody shot his little brother too, only he was in a hotel kitchen. Must be hard being brothers. Non c'erano molti clienti quella sera e l'orchestra suonava moscio, come sempre in quei casi. Per me faceva lo stesso. Meno ne venivano, meglio era. Avere tutte le sere una mezza dozzina di tipi da sbatter fuori più o meno elegantemente, alla lunga finiva per diventare faticoso. All'inizio mi piaceva, godevo a riempirli di botte quei porconi, ma dopo 5 anni di quello sport cominciavo ad averne abbastanza. 5 anni passati senza che nessuno sospettasse, dico nessuno, che un sangue misto, un uomo di colore, gli spaccasse la faccia tutte le sere. Sì, all'inizio mi eccitava, e le donne, quelle schifezze piene di whisky, le schiaffavo in macchina con i loro stracci e le budella piene di alcol, tutte le sere, tutte le settimane, per 5 anni. Questo era l'incipit di Tutti i morti hanno la stessa pelle, di Boris Vian. Thank you. eclettica. Stagione numero 13, settimana numero 34, volume numero 3. Indice. Best Friends. Carpaccio. Jonata. Oi va voi. Muzak. Battles. Fujia e Miyagi. The Cinematic Orchestra. Katrin. Maps. Matt Elliott.